Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, una volta l'ex ministro Tremonti disse che questa crisi sembrava come un videogame che ha ucciso un mostro, ne dovevi affrontare un altro. Mi viene in mente questa battuta perché mentre tutta l'Europa si guardava le punte dei piedi, e quindi il caso greco, modestamente ieri siamo stati facili profeti, ieri e la settimana scorsa, nel dire attenzione, sta capitando qualcosa di enorme e di potenzialmente molto più pericoloso della Grecia in Cina. La settimana scorsa ci occupammo di un crollo dei titoli cinesi che ormai aveva toccato dal 12 giugno già il 30%. Ieri siamo tornati sul tema. Ripeto, è brutto dirlo, ma fummo e siamo stati facili profeti, perché mentre le borse europee hanno questo rimbalzo sulla scia dell'ipotesi che a questo punto si possa veramente arrivare a un accordo sulla Grecia, più 2,60%, Milano soprattutto, perché Parigi guadagna lo 0,90, Francoforte lo 0,80, Londra più 0,80, l'America meno 1%. Questa mattina non solo sono crollate di nuovo le borse in Cina, ma a questo punto in maniera netta ha trascinato con sé Shanghai e Shenzhen, hanno trascinato con sé anche Hong Kong meno 5,80% e Tokyo meno 3,14%. Sta facendo molto più male all'Asia tutto il problema cinese che non qualunque ragionamento sull'Europa, tant'è che oggi in borsa lo vediamo come ripercussione su alcuni titoli legati al lusso, mi riferisco a Tod's e Ferragamo, perché sono molto esposti in Cina, e infatti perde Tod's il 3,60%, Ferragamo l'1,90%. Di questo parleremo in apertura, perché nonostante il più 2,60% di Milano, con Mediaset che guadagna il 5,70%, Enel il 5,60%, come la Pop Emilia Romagna, il Monte dei Paschi in recupero del 5,40%, recupero parziale, Pop Milano più 5,20, Telecom più 4,80, Saipem più 4,40, Buzzinice più 4,30, A2A più 4,14, Banco Popolare più 4,14, anch'esso Finmeccanica più 4, Intesa San Paolo più 3,80, Tenaris più 3,60 come Ubibanca e Unicredit, Mediobanca più 3,5, Mediolanum più 3,20, Snam più 3,14%, e mi fermo con chi guadagna più del 3%. Dicevo, nonostante questo, e nonostante appunto la borsa italiana si muova più sulla Grecia, il tema cinese è un tema delicatissimo. Ne parliamo fra un minuto. Che cosa è successo? Beh, insomma, siamo vicinissimi al panic selling, alle vendite da panico. C'è chi dice no, guardi che ci siamo già. Vabbè, io voglio essere sempre un po' morbido. Shanghai ha perso il 6%, Shenzhen ha perso il 3%, entrambe dopo crolli del 10%, hanno perso il 30% ripeto dal 12 giugno, e a Hong Kong si è arrivati a vendere fino all'8%, il listino è arrivato a perdere fino all'8%, crolli veri e propri. A Shanghai è stato congelato il 71% del mercato, cioè con una mossa che ha poco di capitalistico, molto di comunista, ma soprattutto che ci ricorda, ahimè, diceva bene Oscar Giannino prima, c'è un certo odore di 1929, quando si bloccano tutti i 70% degli scambi, dei titoli non possono essere contrattati. 1323 società, titoli azionari, sono stati sospesi dal borsa nel tentativo molto dirigista, molto comunista, ma è anche molto disperato da parte delle autorità cinesi di bloccare il crollo. Pensate che la borsa cinese ha bruciato in meno di un mese 3.500 miliardi di dollari, che se non ricordo male è l'equivalente della capitalizzazione dell'intera borsa parigina come valore, bruciato dalla borsa cinese, per cui è come se fosse scomparsa Parigi, ecco quello che è successo in Cina. Domani Sole 24 Ore, uno speciale dedicato alla bolla cinese, rapidissimamente le altre notizie in breve, poi parliamo subito di Cina perché dobbiamo collegarci con Pechino, poi vi darò gli altri aggiornamenti sul fronte invece greco. Allora, altre notizie di cui parleremo, sicuramente le trattative in Grecia e anche le valutazioni che sono emerse oggi dal vertice dell'Assemblea annuale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, anche le banche italiane contrarie a questa Europa con troppe regole che frenano la ripresa. E poi l'anno della svolta sarà 2015, massimo impegno delle banche per la ripresa. Il presidente dell'ABI Patuelli, lo sappiamo, lo conosciamo, per lui non esiste il problema del credito delle banche alle imprese, le banche fanno il massimo sforzo. Non è vero, ogni volta che lo intervistiamo, insomma, la descrizione di banche, diciamo che sono quasi vittime. Comunque Patuelli fa notare che c'è un boom dei mutui, cresciuti del 64% fino a maggio. E poi ascolteremo anche alcune dichiarazioni sia del governatore della Banca d'Italia Visco che del ministro dell'economia Padoan. Allora, c'è chi mi dice che devo fare Barisone, ti prego non iniziare a rompere con la Cina, eh? Ho capito, beh, cosa dobbiamo fare, fa finta che non esista. C'è chi dice vuole un po' il gufo. Vabbè, mi posso dare il gufo da solo, perché la settimana scorsa abbiamo detto beh, qui la situazione butta male. Non ho capito il commento di Saverio: avrai letto i giornali, sappiamo leggere anche noi, profeta dei poveri. Beh, intanto Saverio, lo rispondo, meglio profeta dei poveri che profeta dei ricchi, perché un profeta dei poveri c'è già stato e massimo rispetto, ci mancherebbe, profeta di nessuno. Non ho dubbi che lei sappia leggere. Mi sono permesso di dire che mentre tutti si occupavano di Grecia, da una settimana ci stiamo occupando anche di Cina. Adesso esplode e domani, oltre al Sole 24 Ore che già oggi è una pagina, domani farà un approfondimento, immagino che tutti saranno pieni di analisi sulla Cina. Tutto qua. Allora, andiamo subito sulla Cina, quindi andiamo a Pechino e restiamo a Milano. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Volete che mi dia il gufo? Mi do il gufo, è veramente da quando Renzi si è messo a usare il termine gufo, l'avevamo eliminato per non sembrare renziani. Abbiamo un copyright, però mi do il gufo sulla Cina, avendo gufato a suo tempo, purtroppo ho gufato in maniera corretta. Vai. Avete ragione che la borsa cinese era cresciuta tantissimo nell'anno precedente, però però attenzione, non si può neanche sottovalutare un calo del 30% in un mese. Moria Longo del Sole 24 Ore con noi qui in studio a Milano, buonasera Moria. Buonasera a tutti. E Rita Fatiguso invece, la corrispondente del Sole 24 Ore da Pechino, buonanotte, buonasera Rita. Ciao a tutti. Oh, si sente meglio da Fatiguso da Pechino, di tanti collegamenti qui al telefono. Vabbè, bellezza delle telecomunicazioni. Allora Rita, racconta a tutti, noi abbiamo cercato di spiegarlo in questi giorni, come si è arrivati a questa bolla, ma soprattutto che cosa ha innescato questi crolli, perché abbiamo cercato di spiegarlo dicendo attenzione, il governo cinese per paura di una fuga di massa, di quando si è iniziato a dire uscita dal mercato perché il mercato è in bolla, e le banche d'affari americane, c'è chi dice anche spinte, diciamo, da un atteggiamento della Casa Bianca di politica estera, non lo so quanto sia vero. Il governo cinese, quando ha visto il rischio che il mercato prendesse l'effetto slavina e tutti uscissero, ha cercato di agevolare la liquidità, ma in realtà secondo alcuni osservatori è sembrato certificare un rischio bolla. Rita. Ma io francamente metterei da parte ogni dietrologia. Io credo che questo sia un problema interno alla Cina. La Cina sta cercando di trovare delle regole del gioco della finanza con grande difficoltà, e adesso cominciava pian piano a, come dire, pensare di poter fare come tutti gli altri, no? Come certo. Le varie piazze occidentali. quindi portare a compimento una serie di IPO che erano già programmate per lunedì scorso, sono state invece drammaticamente congelate, perché chiaramente c'è un problema grosso di liquidità, soprattutto di accesso al credito per le piccole e medie imprese, per l'economia reale. Però il problema è che c'è stato un passaggio in massa da investimenti nella bolla, che non è mai scoppiata, però è sempre lì, immobiliare, alle azioni, al mercato azionario. E questo chiaramente ha creato questo cortocircuito per cui tutti gli interventi che puntano alle riforme, tra cui appunto quella delle IPO, ma non è l'unico obiettivo del governo di Pechino, cioè dare regole del gioco trasparenti a un mercato che trasparente non è, rischiano di rimanere completamente al palo. E quindi questo è il vero rischio del cortocircuito, ed è un problema cinese. Ma la Cina adesso non è più la Cina di 10 anni fa, è una Cina che è dappertutto, è una Cina che conta tantissimo anche all'estero. Pensate alla mole degli investimenti che ha effettuato in Italia, e gli ultimi sono l'altro giorno l'ingresso nel capitale anche di Montepaschi e di Unicredit, oltre la soglia del 2%, e quindi è una Cina con la quale dobbiamo fare i conti. Vabbè, sì, sì. Anche perché raccontavamo proprio ieri che la Cina si sta trasformando da grande manifattura del mondo in esatto. mercato di consumo, e a noi italiani, non a caso oggi in borsa va male, Tod's meno 3,50 esatto. e Ferragamo meno 2%, a noi italiani interessa molto che da mercato che produce a basso costo e quindi ha spazzato via tutte le nostre produzioni di fascia bassa, ma è già successo 10 anni fa, tessile, certo. abbigliamento, ma non solo, anche immobiliare, diventi un mercato di consumo, perché i 250 milioni di cinesi che hanno un potere d'acquisto simile agli europei comprano anche, o potrebbero anche comprare merci italiane, già lo fanno. Ora, se si blocca però questo meccanismo, ecco perché lo dico agli ascoltori che dicono ma che ce ne frega della Cina, che la Cina, no, ci frega la Cina è vicina più che mai, perché se si blocca quel meccanismo manca solo che si fermi un po' di export italiano, visto che i consumi non ripartono, e lì ci sono le prospettive migliori, le imprese italiane. Ieri ce lo raccontavano addirittura quelli del vino che si quotano in borsa, la Magi, che per il mercato cinese ci vogliono i numeri, le dimensioni, l'Italia è in ritardo e quant'altro. E allora, ho capito che la borsa cinese era cresciuta del 150% in 12 mesi, ma ne ha perso il 30 in un mese. Faccia i rapporti e le proporzioni. 3.500 miliardi di dollari in un mese, una montagna di soldi. E soprattutto c'è stata una marea di vendite enormi anche nella Shanghai Hong Kong Connection, certo. che è questo bridge tra le due borse, che era il fiore all'occhiello delle riforme anche cinesi, perché doveva servire ad aprire il mercato di Shanghai sui mercati, grazie a Hong Kong, sui mercati internazionali. E questo massiccio volume di vendita, questa sfiducia anche su questo bridge verso l'esterno, non è esattamente una cosa positiva. Allora, resta con noi Rita Faticuso, perché poi c'è da raccontare anche una parte che, se non fosse una situazione pericolosa e seria, sarebbe quasi di colore, cioè l'economia cinese da comunista è passata a una versione di comunismo capitalismo, adesso di capitalismo, però poi la tendenza comunista ce l'ha, perché le autorità cinesi oggi hanno ordinato alle società partecipate dal governo di comprare azioni. Sarebbe come se Padoan e Renzi dicessero all'ENI, all'ENEL e al resto e a Finmeccanica: oggi comprate azioni dei titoli che calano. Immaginate cosa capiterebbe in un mondo occidentale. Però gli hanno ordinato di far questo, hanno bloccato, congelato 1323 società in borsa. Però prima di tornare a Rita Faticuso, Moria Longo, che cosa vediamo noi come flussi in questo momento e anche come indicatori sul mercato? Allora, il problema è proprio questo, quello del possibile contagio. Non dimentichiamoci che la Cina è la seconda economia del mondo, il più grande esportatore e il più grande importatore, soprattutto di materie prime. Tant'è vero che già ieri crollavano le materie prime, il rame, di cui la Cina è il maggior consumatore al mondo, e quindi crea un grosso problema nei paesi produttori di materie prime. Quindi l'effetto domino è potenzialmente molto forte. Il problema cinese, se posso dire una cosa, a mio avviso è un problema di eccesso di debito. Cioè l'economia cinese negli ultimi anni è cresciuta molto grazie prima al debito delle aziende. Le società nel 2007 avevano un debito che era pari al 98% del PIL cinese, nel 2014 dal 98 erano passati al 150% del PIL, quindi quasi raddoppiato il debito delle imprese cinesi. Il governo cosa ha fatto per evitare che le imprese continuassero a indebitarsi? Ha cercato di sviluppare il mercato azionario, la borsa, con una serie di leggi, liberalizzazioni e incentivi, in modo che le aziende potessero reperire più soldi in borsa e meno in debito. Cosa è successo però? Che i risparmiatori cinesi, siccome la borsa saliva, giustamente ha detto 150%, hanno iniziato a fare un giochetto che facevano molto gli americani anni prima. Cioè si indebitano per comprare azioni, mettendo le azioni che comprano a garanzia. Anche in Italia durante la bolla della New Economy, tu ed io eravamo già in onda a quel tempo, la bolla della New Economy, eravamo arrivati al punto, in America soprattutto, ma anche in Italia, di gente che chiedeva soldi a prestito per metterli in borsa. È il massimo della follia. Anche perché a garanzia dei prestiti si mettono le azioni. Allora in Cina i prestiti per comprare azioni sono arrivati a un livello, tradotto in euro, di 330 miliardi di euro. Praticamente il debito pubblico greco equivale al debito dei cinesi risparmiatori per comprare azioni. Il problema qual è? Quando la borsa inizia a scendere, le azioni che hai messo in garanzia si deprezzano e quindi le banche, o meglio i broker che ti hanno dato i soldi, ti chiedono di reintegrare le garanzie. Siccome tu risparmiatore magari i soldi non ce l'hai, cosa fai? Vendi le azioni, e questo fa aumentare le vendite. L'effetto domino. Scappano anche gli investitori internazionali che fino a tre giorni fa erano per ottimisti sulla Grecia, e quindi si crea un crollo, e il crollo può continuare perché stimava ieri Citigroup che soltanto un quarto dei debiti fatti dai cinesi per comparazione è stato per ora chiuso. Quindi abbiamo ancora tre quarti del debito ancora vivente. Se le azioni continuano a scendere, tanti altri risparmiatori saranno costretti, forzati a vendere azioni. Allora, il meccanismo che tu hai spiegato, cioè si fa un prestito si chiede un prestito alla banca e si mettono a garanzia le azioni, attenzione che è lo stesso meccanismo che ha portato poi allo scoppio della bolla dei mutui subprime. Cioè il sottostante messo a garanzia in quel caso era il valore dell'immobile. Quando iniziano a calare i valori degli immobili, saltano per aria tutti i mutui in America dati alle fasce meno ricche o le fasce più povere che non potevano ripagare, perché crolla il sottostante che è messo a garanzia. In modo analogo, qui sta crollando la garanzia messa, e cioè le azioni. A quel punto tu queste azioni le devi vendere perché la banca ti chiede di rientrare o di integrare, aumentando ulteriormente il crollo, e questo è l'effetto stampede, o meglio, come si dice in italiano, l'effetto domino, l'effetto gregge. Rita Fatiguso, questa cosa non l'abbiamo già vista, tra l'altro con la New Economy capitò esattamente così, solo che le bolle, il mondo occidentale le conosce dalla bolla dei tulipani, ai crediti scozzesi, e poi siamo arrivati al 29, poi ci siamo beccati anche la bolla della New Economy e quant'altro. Potremmo dire ai cinesi, attenzione, è il capitalismo, bellezza, nel senso che il capitalismo non è solo che la borsa sale e tu guadagni investendo, la borsa scende e quando è troppo alta salta per aria. Rita, bisognerebbe capire chi è che presta i soldi, perché non sono molto convinta che siano soltanto i broker, che è una figura istituzionalizzata. Sappiamo che il governo cinese da mesi sta cercando di fare una lotta allo shadow banking, cioè tutte queste forme improprie, strane, anomale di prestiti, diciamo, su questi collaterali, sui debiti. Anche vietato l'emissione di corporate bonds a copertura di ulteriori emissioni. Quindi ha cercato in qualche modo di, come dicevo prima, sta cercando di fissare le regole del gioco, perché è un mercato appunto un po' da far west, non trasparente, non è aperto al resto del mondo nella maniera più come la potremmo intenderla, no? E quindi è chiuso entro certi limiti, e quindi sta cercando di fare questo tentativo di pulizia anche all'interno, ma magari anche con meccanismo che ha evidenziato Moria prima, sicuramente esiste una percentuale di debito che non si riesce a fronteggiare, e che chiaramente rischia poi di creare effetti collaterali. Però ecco, questo secondo me è ben chiaro che Rita, le analogie con il mondo occidentale sono fortissime. Guardate che anche in Italia e in Europa la bolla dei titoli della New Economy del Nasdaq nacque dopo 10 anni continui di crescita dei valori immobiliari. A un certo momento, quando l'immobile è alto, tu inizi a dire non li metto più sulla casa, dove li metto? E lì arrivano sempre i geni dei gestori, guardi che vada sull'azionaria, cresce, siamo positivi. E lì, cioè, non è un caso che prima abbiamo parlato per anni di un rischio di bolla immobiliare, ma la bolla immobiliare ha altri meccanismi, altri tempi, c'è comunque un immobile di garanzia, non scoppia mai. Voglio dire, per un mercato immobiliare già perdere il 10% è tantissimo, non arrivi mai a perdere il 30% in un mese, neanche in un anno. Moria, perché poi vorrei tornare su con Rita Fatiguso sulle misure che adesso prenderà il governo cinese. Molti analisti, unendo il combinato disposto di Grecia da una parte e Cina dall'altra, dicono: beh, a sto punto, viste le incertezze e visto che si deprezzerà, l'euro continua a essere 1,10 e anche lo yuan ne risentirà. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, probabilmente non alzerà i tassi a settembre. È probabile, anche perché l'economia americana ha dato segni di rallentamento, soprattutto a causa del dollaro forte. Bisogna vedere se queste turbolenze dureranno anche tutta l'estate e anche successivamente. Per cui, se a settembre ancora staremo qui a parlare di Grecia e Cina, mi auguro di no. No, ti prego. È no, possibile, almeno la Grecia. A parte la noia, è possibile che la Federal Reserve decida di non alzare più tassi. Non è la noia, è che voglio dire, vorremmo parlare anche di cose, guardare un po' il futuro, non solo la punta dei piedi. Sono due cose molto diverse, ma a mio avviso la Cina sta sperimentando, diciamo, tutte le forme del capitalismo, che non è solo, come pensavano loro, la grande capacità di vendere prodotti a basso costo, delle volte a sotto costo, nei mercati. Non è solo la capacità di arricchirsi, i miliardari cinesi ormai sono su tutte le copertine, ma ci sono anche i rischi dell'economia di mercato, i rischi delle bolle speculative. Adesso è che cosa farà il governo cinese, che già ha tentato di mettere a disposizione dei broker liquidità agevolata, creare un fondo di stabilizzazione per acquistare titoli e tenere in portafoglio, modificare le garanzie per la marginazione. Dopo il metodo e la pubblicità chiederò a Rita Fatiguso di spiegarci come si sta muovendo, perché è chiaro che quello che ha fatto oggi è da regime comunista, ma vale solo per poche ore, per pochi giorni. Hai congelato il 70% del mercato, hai sospeso 1.323 società, 28 società che dovevano collocarsi hanno già sospeso i loro piani, ha annunciato misure straordinarie. Qualcuno mi dice: anche da noi la Cassa Depositi e Prestiti si chiede di comprare azioni. Non scherziamo, al di là delle battute su quello che Renzi vuole fare della CDP, ma qui proprio hanno chiesto alle grandi compagnie di assicurazioni e alle grandi compagnie statali di acquistare azioni. Dopo il meteo e la pubblicità, le prossime mosse del governo cinese. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. A 7:39 minuti, allora la borsa ha chiuso più 2,60%. Rita Fatiguso, concludiamo sulla Cina. Qualcuno ci scrive: adesso, dopo averci sfracellato gli zebedei con la Grecia, adesso ci aspetta la Cina. Guardi, noi non vogliamo sfracellare nulla, nessuno, ma nei momenti in cui crollano tutti i mercati asiatici, che sono mercati di sbocco per le nostre merci, consumatori, e sono anche mercati di investimento. Infatti c'è una battuta di chi vede sempre, diciamo, il caso particolare, deve essere un tifoso milanista che mi scrive: vuoi vedere che adesso Berlusconi deve ritornare i soldi a Mr. B? Speriamo, non penso che la situazione sia così tragica, però attenzione, perché meglio parlarne prima che commentare dopo. Allora, Rita, al di là delle misure di emergenza di oggi, far comprare alle aziende statali le azioni, sospendere il 70% del listino, aumentare la quantità di azioni che le compagnie di assicurazioni possono acquistare, continuare a fornire liquidità agli investitori, è vero che la borsa era cresciuta del 150%, però ora che può fare il governo cinese? Ma credo che il pericolo più grande sia che questo tipo di incertezza si trasmetta o si sommi all'incertezza proprio sulla crescita reale della Cina, se riuscirà a raggiungere il fatidico 7% entro quest'anno, che era già abbastanza dubbio. Quindi questa è la preoccupazione più importante del governo di Pechino, che non ha sicuramente un piano B in questo momento, anche perché è fatto di grandi, di diversi centri di potere. Dall'esterno sembra quasi che sia una cosa super compatta, ma così non è. Quindi ci sono le finanze, il ministero delle finanze che ha la sua politica, il governatore della People's Bank of China che ha cercato di fare una politica più, diciamo, così flessibile dal punto di vista monetario, tagliando i tassi ripetutamente, i ratios eccetera, e le finanze che stanno cercando di trovare un sistema per il debito locale degli enti locali con emissioni di bond municipali. Ecco, sarà molto difficile ritrovare, resettare e trovare la quadra per poter portare avanti una politica nuovamente concertata, perché secondo me sono rimasti tutti quanti molto colpiti e spiazzati. Pensavano che la borsa potesse solo crescere. Sì, non immaginavano probabilmente una frenata così brusca. Ecco. Benvenuti nel mercato dei capitali. Ecco. Esatto. Benvenuti nella finanza. Allora, non alta, sarà un po' dura, non so capito? Quella alta. Benvenuti una finanza bassa o media o alta che sia. Detto questo, è ovvio che a noi, con massimo rispetto, però se il risparmiatore cinese perde un po' dei suoi risparmi in borsa, purtroppo l'abbiamo visto capitare a tanti risparmiatori italiani, qualcuno si ricorda Argentina, ma soprattutto Cirio, Parmalat, Giacomelli, Banca 121, vado solo sugli scandali, poi potrei continuare invece sulla bolla vera e propria che colpì titoli come Poligrafica, San Faustino, vado a memoria, Cicolella, Freedomland, cosa c'era, Seat, Pagine Gialle, tutto il delirio sulla New Economy, e purtroppo capita anche ai risparmiatori cinesi. Altra cosa, lo dico con un po' di egoismo, se oltre a creare un danno ai risparmiatori cinesi questa cosa dovesse frenare la crescita dell'economia cinese, creare un danno ai consumi, perché invece mi interessano i consumi dei cinesi. Mettiamola così, non è che possiamo solo importare beni cinesi. Grazie intanto da Pechino anche per l'ora, perché ore sono? Metti 6 ore di differenza. Vabbè, metti 6 ore di differenza, l'abbiamo fatta. Vabbè, non è tardi. Non ti lamentare troppo. Sono le 11.43, per cui adesso è ora di andare a nanna. Grazie a Rita Fatiguso in collegamento con noi da Pechino. Adesso però la borsa sul resto dei temi della borsa. Ragione l'ascoltatore, è Biscom. Allora, che bel messaggio di un ascoltatore che dice: faccio camionista, volevo ringraziarvi perché con voi la strada diventa più corta e meno stressante. Bene, l'importante è che sia sempre sicura, e così. Allora, la borsa più 2,60%, Parigi più 0,70%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,90%, l'America invece perde un punto percentuale, Milano nettamente migliore, 2 punti in più rispetto alle altre. La borsa crede che adesso faremo un accordo, si arriverà a un accordo con la Grecia, e neutralizza in parte il crollo di Shanghai. Dico in parte perché, come dicevamo prima, due titoli ne risentono: Tod's meno 3,70%, Ferragamo meno 2%, molto esposti in Cina. Tra l'altro tutti e due fanno più o meno il 30% in Oriente. Oggi è crollata non solo Shanghai, ripeto, anche Tokyo meno 3,14%, Hong Kong meno 5,80%. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Eleonora, gli altri titoli possiamo anche archiviare, diciamo, con le notizie che arrivano dalla Grecia, che adesso racconterò. Enel Green Power più 5,80, Monte dei Paschi più 5,70 come Pop Emilia Romagna, Mediaset più 5,5 come la Pop Milano, A2A più 4,50 come Telecom, Buzzi Unicemi 4,20 lo guadagnano Saipem e Finmeccanica, il Banco Popolare più 4, Tenaris più 4, Intesa San Paolo più 3,60, Unicredit più 3,40 come Mediolanum e Ubibanca il 3,20 è il rialzo invece di Mediobanca, il 3% lo porta a casa Snam. Eleonora. Sì, oggi sono andate molto bene le banche, che ricordiamo però erano state letteralmente massacrate nei giorni scorsi. Sono andate bene sia perché hanno rialzato la testa, sia perché è tornato giù lo spread, si è attestato sul finale a 154 punti, facendo sperare appunto in un accordo e facendo sperare che la situazione tenda a calmarsi anche sul fronte dei titoli di Stato. E giustamente tu fai notare come, insomma, le banche e tutto si muova come fatto all'opposto rispetto a ieri, ma con la stessa logica, cioè si va a comprare. Telecom Italia però. Sì, andiamo Telecom Italia titolo. Invece riflettori puntati quest'oggi su Telecom Italia, se non altro perché il CEO, cioè l'amministratore delegato della francese Vivendi, che ricordiamo detiene il 14,9% del capitale della compagnia telefonica e dunque è diventato il socio di riferimento proprio di recente, si è recato a Roma dove ha incontrato i vertici della società e ha incontrato inoltre anche rappresentanti del governo Renzi. E peraltro, diciamo, ha fiammato un po' la speculazione, soprattutto perché sull'onda di indiscrezioni riportate quest'oggi da Repubblica ha detto mai dire mai all'ipotesi che il gruppo possa ulteriormente rafforzarsi in Telecom Italia rispetto al 14,9%. Poi Repubblica parla addirittura di una quota che potrebbe acquistare fino al 22%. È da vedere però quale sarà la posizione del governo, se appunto sarà sì, favorevole, oppure se a quel punto i francesi cercheranno sponda con aziende italiane. Comunque il mercato scommette che possa a breve succedere qualcosa, tant'è che i titoli hanno fatto più 4,5%. Traffico. Focus Economia. Da 7:49 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Eleonora Micheli, chiarito su Telecom, altri grossi temi oggi, ripeto, in borsa non ce ne sono, di Ferragamo e Tozzi abbiamo già detto. Salini in pregiro, così andiamo sulle notizie concrete. Salini in pregiro si è messa un po' in evidenza quest'oggi, sebbene poi abbia rallentato il passo nel corso della seduta, ha chiuso solamente con un progresso dell'1,19%, perché ha annunciato comunque che realizzerà un'opera importante in consorzio insieme ad altre società, Galfar e Cimolai. Si tratta della realizzazione dello stadio in Qatar, un'opera da circa 770 milioni che dovrà essere consegnato entro il settembre 2018. I migliori e i peggiori di questa seduta di borsa, ripeto, sono seduti con la Grecia, tutto si appiattisce, funge un po' da livella come spiegazioni. Fedon più 9,96, primi sui motori più 7,80, Brioschi più 6,30, Zanetti il caffè in borsa più 6%. E poi il Monte dei Paschi, l'abbiamo detto. Fronte opposto, Lucisano Media Group meno 5,70, Mertecnimon meno 5,30, Neurosoft meno 5,20, Biancamano meno 4,20. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, prima di arrivare alla Grecia. Tanto non è successo niente, non vi preoccupate, purtroppo. Occupiamoci invece delle pensioni degli italiani. Dead Mouse così. Perché lo dico? Perché oggi ne ha parlato il presidente dell'INPS, Tito Boeri, nel corso della presentazione del rapporto annuale dell'INPS, dando anche cifre insomma non che possono spaventare, lette così. Allora, il rosso dell'INPS nel 2014 sarà di 12 miliardi e 700 milioni, ma non è a rischio la sostenibilità del sistema di sicurezza sociale. Il patrimonio è salito da 9 miliardi a 17 miliardi grazie al ripianamento dei debiti verso lo Stato dell'ex INDAP per 21,7 miliardi. Meno dell'1% delle pensioni ai dipendenti sono liquidate con il contributivo, l'8,3% è un sistema misto, il 91% degli attuali pensionati ha ancora il sistema retributivo. Problema, più che altro è una grossa sperequazione tra, ecco perché tutta la retorica, non si può chiedere ai pensionati, ma non diciamo cavolate, chi è andato in pensione con retributivo gode di un beneficio, di un privilegio che chi vi parla, chi sta in regia, tutti quelli che hanno fino a 60 anni, gli esodati, nessuno vedrà mai, ok? Per cui abbiate pazienza, forse in un momento di difficoltà un po' con la consulta, col beneplacito della consulta e anche delle pensioni dei magistrati, forse un po' di solidarietà si potrebbe chiedere a chi è andato in pensione con il retributivo, cioè con la pensione molto generosa, quella che va a vedere l'ultima retribuzione, altro che i contributi versati. E vale anche per i dipendenti privati, oltre che per quelli pubblici, a maggior ragione quando parliamo di pensioni dai 2000 euro in su. Comunque, l'INPS ci dice che il 42% dei pensionati, sono 6 milioni 600 mila, hanno una pensione sotto i 1000 euro e assorbono solo il 19% della spesa. Anche qui vogliamo ragionare su chi invece ha pensioni stellari? No. La fascia più povera, la popolazione con i redditi più bassi, ha perso il 27% del reddito, cioè il 10% più povero ha perso il 27% del reddito disponibile, mentre il 10% più ricco ha perso solo il 5%, quindi è aumentato il divario sociale, il famoso indice di Gini. La quota di persone povere è passata in 6 anni dal 18 al 25% della popolazione, sono 4 milioni in più, da 11 a 15 milioni. La fascia di età più penalizzata, quella tra i 50 e i 59 anni. Ce la faccio a far sentire Boeri. Boeri sulla flessibilità nel sistema contributivo. Le regole del sistema contributivo consentono una certa flessibilità in uscita. Spalmano un montante contributivo accumulato durante la vita lavorativa in pagamenti mensili, in base all'età e alla speranza di vita residua. Chi va in pensione prima deve spalmare questa cifra su molti più mesi di chi va in pensione più tardi. A parità di montante, ogni anno in meno di lavoro comporta una riduzione di questi pagamenti mensili, tenendo conto della demografia e dell'andamento dell'economia. Posto che le pensioni siano sufficienti a garantire una vita dignitosa senza comportare l'intervento dell'assistenza sociale, questa è una flessibilità sostenibile, che non grava sulle generazioni future in quanto non porta ad aumentare il debito pensionistico. Si può così permettere a chi ha in mente di dedicare meno tempo al lavoro verso la fine della propria carriera di farlo, senza per questo gravare sulle generazioni future. Questa flessibilità può essere anche molto utile durante le recessioni, perché permette che parte dell'aggiustamento agli shock macroeconomici avvenga attraverso riduzioni dell'offerta di lavoro anziché generando disoccupazione, come è avvenuto negli ultimi 7 anni. E poi è lo stesso presidente dell'INPS Boeri a chiedere e dire e sarebbe giusto chiedere a chi ha i redditi pensionistici elevati in virtù di trattamenti più vantaggiosi di cui godranno i pensionati di un domani, cioè retributivo, un po' di solidarietà, ma tanto su questo non ci vogliono sentire anche quelli che sono andati con la pensione a 2.000-3.000 euro netti al mese. Poi parliamo anche di Wall Street che ha bloccato le contrattazioni per un problema tecnico. Adesso però GR... Il segnale orario vi è offerto da Focus Economia. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Era immaginabile che scrivessero molti ascoltatori, immagino toccati sul vivo dalle pensioni prese con il retributivo di fascia alta. Ci siamo permessi di dire che a nostro avviso ha ragione il presidente dell'INPS Tito Boeri, dicendo, dopo aver ricordato che la fascia più povera nella crisi economica in Italia dal 2008 ha perso il 27% del suo reddito disponibile, la fascia, il 10% più ricco invece, ha solo visto ridursi del 5% il reddito disponibile. E aver ricordato Boeri che ci sono 6.600.000 pensionati, il 42% sotto, che prendono meno di 1.000 euro al mese e assorbono però solo il 19% della spesa, a vantaggio di chi ha pensioni ben più alte, ci siamo permessi di ricordare di essere d'accordo con Boeri, che ha detto che bisognerebbe fare un contributo di solidarietà sulle pensioni elevate in virtù di trattamenti molto più vantaggiosi di quelli di cui godranno i pensionati del domani. Mi scrivono alcuni ascoltatori: ma io, se ho una pensione alta, è perché avevo uno stipendio alto. Lo sappiamo, ma il problema è che lei è potuto andare o è potuta andare in pensione con quella pensione perché andava con il retributivo. Adesso anche chi ha uno stipendio alto, e se lo merita per le responsabilità, lo stress, il carico di lavoro che ha, quando va in pensione va col contributivo, cioè in base ai contributi versati, e se lo sogna o se la sogna la pensione che ha avuto lei. Questo è il punto, non è contestare le pensioni alte, è capire come furono date quelle con retributivo e come vengono date a parità di salario e quindi di responsabilità e di carico di lavoro e di stress le pensioni adesso. Allora, per quello che riguarda invece la situazione italiana, in virtù di quanto è successo e sta capitando in Grecia, di Cina abbiamo già parlato, vorrei farvi ascoltare che cosa hanno detto oggi a margine della presentazione dell'Assemblea Annuale dell'ABI, e quindi mi riferisco all'Assemblea Annuale delle Banche Italiane. E da un lato iniziamo con il ministro all'economia Padoan, che ha detto: accanto all'apertura di un cantiere per la Grecia occorre aprire un cantiere per l'Europa. Accanto all'apertura di un cantiere per la Grecia occorre aprire un cantiere per l'Europa. In ambedue i casi occorre un disegno ambizioso e di lungo periodo, e il governo italiano è fortemente impegnato in prima linea per promuovere ambedue i cantieri. Il vero dilemma non è austerità sì o austerità no. Il vero dilemma è come tradurre in pratica l'obiettivo della crescita e dell'occupazione in Europa. Occorre un programma di riforme nazionali ed europee, il completamento del mercato interno, stimoli e incentivi per gli investimenti. A ben vedere, la risorsa che più è carente oggi in Europa non è la risorsa finanziaria, non è lo spazio fiscale, è la fiducia. E sempre su questo anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, dice: gli esiti della crisi sono incerti, gli effetti saranno modesti sull'Italia, ma i rischi saranno maggiori se l'euro verrà percepito come non irreversibile. Ascoltiamo Visco, poi fatemi fare un commento un po', diciamo così, dissacrante anche su questo. Perché, insomma, Visco, dai. La lunga, ancora irrisolta crisi greca ha gettato nuova luce sui limiti tuttora presenti nella governance dell'Unione Economica e Monetaria, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni. La stabilità dell'Unione non può essere messa in discussione dalla difficoltà di un singolo Paese. Se uno Stato membro si trova in una posizione finanziariamente insostenibile, deve essere possibile arrivare a una soluzione in modo rapido e ordinato. Nel rafforzamento dell'integrazione europea, non solo economica, vanno ricercate e introdotte modalità efficaci di gestione dell'emergenza. Per assorbire shock sia ciclici sia strutturali è necessario, in ultima analisi, che l'area disponga di un bilancio comune, basato su un'autonoma capacità impositiva e sul ricorso diretto ai mercati finanziari. Allora, insomma, a me sembra che tutti diano un colpo al cerchio e un po' colpo alla botte, nel senso che si continua a dire gli effetti modesti in Italia, ma maggior rischi se l'euro sarà percepito come non irreversibile. E insomma, se la Grecia dovesse uscire, è ovvio che l'euro verrebbe percepito come non irreversibile. Sentiamo anche il numero uno dell'ABI, Patuelli, Antonio Patuelli, sul 2015, ma soprattutto sulla necessità di un accordo tra Grecia e creditori. Io vedo che non c'è soggetto greco che non voglia la ripresa del negoziato. Non ho ancora visto alcun soggetto di altra parte d'Europa che abbia detto io respingo a priori il negoziato. E di conseguenza, se negoziato c'è, un negoziato si sviluppi. Io vado sulla principale, non uso subordinate che indebolirebbero la principale. Oggi si è parlato anche di accesso al credito per le imprese, un tema ancora non completamente sviluppato, però si è fatto qualche passo in avanti. Da questo punto di vista, qual è la sua analisi? La mia analisi è che sia il governatore che il ministro dell'economia e delle finanze hanno dato atto di questi germogli di ripresa nei quali il mondo bancario italiano è impegnatissimo. Chi ha deciso di investire di più sono le famiglie, hanno le famiglie al loro fianco, le banche che a tassi infimi, i più bassi della storia d'Italia, di oltre un secolo e mezzo, realizzano una crescita dei mutui di questi primi 5 mesi del 2015 rispetto all'omologo tempo dell'anno scorso di circa il 60%. Aumentano anche i prestiti al consumo di circa il 10% e aumentano i nuovi prestiti alle imprese di circa l'11%. Questi sono i dati vitali, sono i germogli di ripresa che dobbiamo favorire, anche abbandonando un pessimismo preconcetto che in questa fase di questi mesi è fuori luogo. Dottor Patuelli, lei è stato nostro ospite già alcune volte come presidente dell'ABI, tutto bene, però le banche hanno tassi bassi perché la BCE li ha messi bassi, cioè non è merito delle banche se hanno i tassi ai minimi storici. E poi io capisco che i dati si possono prendere in tanti modi ed è sicuramente vero quello che lei ricordava, i nuovi prestiti, però il dato che voi pubblicate, che poi pubblica la Banca d'Italia ogni mese, segnala un rallentamento, sì, ma ancora un calo dei prestiti alle banche, alle imprese, alle famiglie. Di cosa stiamo parlando? Che poi ci siano richieste per denaro non bello, per investimenti, che le banche siano già sommerse dalle sofferenze bancarie, tutto giusto, ma non raccontiamo pezzi di verità. Perché sembra sentir Patuelli che le banche si siano rimesse a prestare soldi all'intero paese, ma che dici? Sono ancora, c'è il segno meno sui prestiti a famiglie e a imprese, è un meno di prima, e le banche possono avere mille motivi per non prestare soldi in quel modo. Abbiamo raccontato con anche le principali banche i tentativi che fanno di prestare alle imprese, ma non diciamo solo il pezzettino ai nuovi prestiti, perché sennò è marketing e un presidente dell'ABI non deve fare marketing, deve dire la situazione come sta. Abbia pazienza, Patuelli, su. Allora, professor Mario De Aglio, economista, insegna economia internazionale a Torino, buonasera. Buonasera a lei. Ce l'ho con Patuelli, ma non ce l'ho con Patuelli, dico semplicemente, insomma, non si può sempre raccontare come se tutto il resto del mondo ce l'avesse con le banche così per spirito preso. Dopo il traffico vorrei capire banalmente, mi chiedo un'ascoltatrice, avete già parlato di Cina? Sì, tutta la prima praticamente ora del programma. Rischiamo più con la Cina o con la Grecia? Faremo anche un aggiornamento degli ultimi sviluppi in questa telenovela greca. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Στόχο να επιβαρύνουν επιπλέον τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. La proposta sulla ristrutturazione del debito non vogliono appesantire l'europeo. I programmi e le proposte che sono state imposte al popolo ellenico, i soldi che abbiamo preso, sono stati soldi per salvare le banche e non sono soldi che non sono mai arrivati al popolo greco. In tanti altri paesi sono stati imposti programmi di austerità, ma non così lunghi. Non sarebbe un'esagerazione dire che la mia patria, gli ultimi anni, è diventata una cavia. Ma questo esperimento dobbiamo ammettere tutti che non ha funzionato. Oh, così Tsipras oggi in un passaggio del suo intervento all'Europarlamento: siamo una cavia, i soldi sono serviti a salvare le banche europee, non hanno mai raggiunto il popolo. Professor De Aglio, su questo possiamo dargli ragione, poi possiamo criticare Tsipras su come ha condotto le trattative, però sul fatto che questi soldi abbiano messo in sicurezza le banche tedesche, francesi, in parte anche quelle italiane, adesso il debito ce l'hanno con noi, con i cittadini, e che l'austerità non sia servita, visto diciamo, che il debito greco si è ricreato, almeno su questo possiamo dare ragione a Tsipras? Sì, con una chiosa. Sì. E cioè che se noi guardiamo la storia greca degli ultimi 15 anni, quindi partiamo da prima delle Olimpiadi e tutto quanto, l'errore che è stato fatto dalle banche europee è stato quello di dare troppi soldi alla Grecia per i progetti di sviluppo sostanzialmente non solidi, cioè legati a un fatto unico come erano le Olimpiadi, per trovarsi subito dopo con un debito gigantesco. In altri termini, il reddito che avevano i greci era più alto di quello che comportava la loro forza economica, la loro struttura. Vivevano sopra le loro possibilità. È colpa nostra. Ma infatti la colpa, secondo me, noi dovevamo essere così duri come adesso siamo negli anni passati, nel 2006, quando ci furono le Olimpiadi, perché quel debito lì, un debito si crea se qualcuno ti presta i soldi, non è che... Possiamo anche dire sottovoce che tra quelli che gli hanno prestato più soldi ci sono proprio le banche tedesche? Ah no, le banche tedesche e francesi, mi scusi, l'esposizione era di 80 miliardi delle banche francesi e 60 miliardi di quelle tedesche, poi 30 avevano quelle italiane, per cui a quel tempo si davano troppi soldi alla Grecia senza controllare il rischio, però faceva comodo, perché parliamo degli anni prima del 2008. Poi, come sempre, c'è uno che dà i soldi e sbaglia e un altro che li spreca, li spende e va, appunto, come scriveva ieri un ascoltatore, a giocare ai cavalli al night, e quindi ha pure lui le sue responsabilità. Secondo passaggio di Tsipras, in cui ha ricordato come la Grecia si stia impegnando nelle riforme ma ha il diritto di scegliere come distribuire i sacrifici. Σε αυτές τις προτάσεις προφανώς και έχουμε αναλάβει την ci siamo impegnati con forza να πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους a prendere gli obiettivi di bilancio previsti dalle norme, perché noi riconosciamo e rispettiamo le regole dell'Eurozona, però manteniamo il diritto di scelta. Cioè, scegliere noi come governo sovrano come distribuire il peso fiscale in modo da centrare gli obiettivi previsti. E credo che sia veramente un diritto sovrano di un governo quello di scegliere di aumentare la tassazione sulle imprese per non dover tagliare le pensioni minime se si tratta di centrare gli obiettivi di bilancio. Se non è questo un diritto di un governo sovrano, cioè come trovare misure equivalenti per centrare gli obiettivi, allora forse scivoliamo in una visione del tutto antidemocratica. I paesi sottoposti a un programma di aiuti non dovrebbero nemmeno tenere le elezioni, i governi dovranno essere nominati con dei tecnocrati, dei governi, dei tecnici, e che decidano loro. Θα πρέπει να διορίζονται κυβερνήσεις, να διορίζονται τεχνοκράτες και αυτοί να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων. Allora, professor De Aglio, un commento anche su questo e poi vorrei capire se, vista la puntata, la Grecia è chiaro che ci tiene col fiato in sospeso, ma rischiamo più della Grecia o della Cina? Insomma, Tsipras dice, attenzione, insomma, qui uno potrebbe obiettare, sì, ma voi avete proposto ogni volta, avete cambiato i piani, non volete toccare alcune cose che vanno toccate, però lui dice, insomma, un governo ha anche il diritto, a mio avviso, è stata quella la debolezza dell'Europa, dell'Eurogruppo di due settimane fa, di decidere se i conti li vuoi mettere in sicurezza con l'IVA, con le aliquote IVA o tagliando le spese militari, per citare i punti dove non si è trovato l'accordo. De Aglio. Io sono d'accordo con Tsipras che i governi nazionali devono avere il diritto di proposta e non devono essere invece autorità esterne a proporre. Sommessamente quelli a cui vengono chiesti altre decine di miliardi dovrebbero chiedere di dimostrare che con quelle proposte che Tsipras ha fatto si ottiene veramente il pareggio di bilancio, mentre le proposte dei suoi predecessori non l'hanno ottenuto per niente. E magari di chiedergli perché non fa altre proposte, poi decidono loro, assolutamente roba loro, ma perché non fanno pagare le tasse agli armatori? Forse l'Europa potrebbe aiutarli a evitare che gli armatori scappino. Tra l'altro, certo. Mi si dice che la Grecia non ha un catasto, non so se sia vero, ma credo di sì. Forse avremmo un po' di aiuto a fare un catasto, sarebbe anche una cosa giusta. Voglio dire, i discorsi concreti poi vanno a finire su queste cose. Sì. Se uno pensa di risolvere il problema greco semplicemente garantendo i più poveri, che è un fatto sacrosanto, no, bisogna anche guardare a tutta la società nel suo insieme. Beh, in effetti, qualche volta si ha l'impressione che i greci, sì, non lo facciano. Esatto, un po' di resistenza a cambiare veramente anche sul pubblico impiego, anche sulla concorrenza, non parliamo dell'evasione fiscale, dei privilegi nelle isole. Insomma, dai, basta andare in Grecia qualche volta per capire che tasso di legalità e illegalità, ma non parliamo di criminalità organizzata, parliamo appunto di una ricevuta fiscale che non si vede mai, di carte di credito che non si usano, non solo adesso perché le banche sono chiuse e quant'altro. Senta, De Aglio, però, più pericolosa la Cina o la Grecia? E secondo lei, ieri Adriana Ceretelli era molto scettica sull'ipotesi che si potesse chiudere, diceva che politicamente non c'è la volontà di salvare la Grecia, oggi un po' più di interlocuzione. Come finirà la vicenda greca ed è più pericolosa quella o quella cinese? Ma guardi, con Cina e Grecia mi lasci usare una metafora. La Grecia è un temporalone che può portare la grandine, fa un sacco di danni, però sappiamo che dura qualche ora, in qualche modo si risolve. La Cina è un ciclone che ci sta venendo addosso, come tutti i cicloni non sappiamo se poi ci verrà proprio addosso, se poi si sfogherà in mare, ma se ci viene addosso fa 100 volte peggio, cioè distrugge l'economia mondiale. E lo distrugge come? Glielo dico in due parole. Il primo a andare giù è il Giappone, che ormai è legato alla Cina da una partnership commerciale molto forte e che ha un debito pubblico di 240% sul PIL, quindi più o meno il doppio dell'Italia quasi. E se va giù questa cosa Cina-Giappone, a noi, anche se non siamo colpiti direttamente, non rimane che accettare le proposte degli americani di fare una zona di libero scambio tra di noi e basta. Certo. Quindi questo è più o meno il discorso che abbiamo. Poi abbiamo il nostro temporale greco. Temporale greco non sappiamo bene, come tutti i temporali, neanche i meteorologi sanno prevedere con sicurezza dove esattamente viene la grandine e tutto quanto. Al momento attuale credo che non si possa dire nulla, perché alla fine l'ultima parola passa a questi benedetti politici europei, di cui vedo una sola persona che sta zitta, che è la signora Merkel. Quindi finché donna Angela non parla, siamo tutti qui ad aspettare, tutti a fare dei conti cini eccetera, ma poi alla fine c'è una scelta politica da fare. E la scelta politica deve fare, io non vorrei essere nei panni della signora Merkel, lei se vogliamo ancora l'Europa o no. Mi scusi, in una battuta, ma paradossalmente Wall Street è bloccata adesso, anche il sito, per un problema tecnico, non sembra che non ci sia un attacco dell'hacker, ma paradossalmente il rischio che la Cina sia un ciclone, altro che la grandine greca, non potrebbe far accelerare un accordo sulla Grecia? Cioè beccarsi sia il ciclone che viene dall'Asia, mentre hai il rischio di una grandine e temporale in Europa, forse un po' troppo, eh? E direi che dovrebbe. Teniamo presente che molta gente si è dimenticata della Cina, dove invece i segnali sono chiari dall'inizio di giugno, e quindi sono però nessuno può prevedere, come per i cicloni, esattamente quanto saranno forti, eccetera. Adesso si vede che è fortissimo. E quindi hanno avuto, se no, 2 o 3 giorni di tempo per adattarsi all'idea. Per un mondo come quello di Bruxelles, dove ci vogliono 2 o 3 giorni semplicemente per decidere se si va a prendere il tè assieme, questi sono dei tempi molto, molto troppo stretti e non hanno ancora nessuna idea. Grazie anche a Mario De Aglio. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.